Guardi Rovazzi, tra tutti i valori che potevano salirle, gli è salito quello dello zoo e ha ben 105. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Allo zoo di 105 c'è un suono che fa. Ma vai a faticare, pelandrone di merda. Luca Alba fa ricco ma vive in cantina. Alan si ficca soltanto Santina. Vabbè, senza che fai lo scemo, uè. Adesso ho capito. Faccio come Wender, non mi censuro. Se mi chiama Herbert, mi stemmio duro. Io nel club non pippo come Palmieri. Paolo Noyes è brutto, ma con Mazzoli è transessuale. Andiamo a comandare. Anche se Spy non sa mixare. Andiamo a comandare. Alisei non ti allargare. Andiamo a comandare. Butto faccio dalle scale. Andiamo a comandare. It's one on five, two. Only for you. Bastardi tutti quanti. Andiamo a comandare. It's one on five, two. Only for you. Il programma più ascoltato d'Italia.